Euroreportage. TBC, il ritorno del mal sottile, di Gigi Donelli. Dunque, per intanto la tubercolosi sì, era scomparsa dalla scena pubblica, diciamo così, dei paesi europei occidentali, del Nord America, eccetera, perché si riteneva a torto, ovviamente, che si fosse, diciamo, estinta. La realtà è ben diversa, semplicemente era scesa di molto rispetto, che so io, a un secolo fa. Ciò nonostante è sempre rimasta nei nostri paesi, in tutti i paesi al mondo, non c'è alcun paese che veramente abbia eliminato la tubercolosi. Parliamo di 8,7 milioni di casi ogni anno, casi nuovi ogni anno, e di 1.400.000 morti che la rendono la causa principale di morte da malattie infettive insieme all'AIDS. Quindi è veramente un qualcosa di grosso e che è spesso dimenticato, soprattutto nei nostri climi, diciamo così, perché ha la tendenza a limitarsi ai gruppi più a rischio, alle popolazioni più marginate, ai poveri, ai senza tetto, ai tossicodipendenti e così via. Tutti i morti della SARS equivalgono in termini di numeri a mezza giornata di morti della tubercolosi. Il dottor Mario Roviglione, responsabile OMS per la tubercolosi, usa un paragone forte per ricordare come a volte l'effetto mediatico di alcune epidemie non abbia nulla a che fare con la pericolosità assoluta. Ogni giorno, ci spiega, 1.000 persone solo in Europa si ammalano di tubercolosi. Il primo segno è la tosse, ma non dobbiamo allarmarci inutilmente. Andrea Azzori del QAM di Padova ci spiega che non si tratta di una tosse qualunque. No, la tubercolosi purtroppo non è una tosse ed è purtroppo una malattia mortale se non trattata. È subdola, nel senso che non è una malattia acuta, è spesso lenta, quindi, e questo comporta anche un ritardo diagnostico, cioè le persone si trascinano con questa tosse, con questa febbre, un'importante perdita di peso, fino a quando molto spesso arrivano nelle nostre strutture ospedaliere cachettici, quindi proprio completamente debilitati. Però la cosa bella è che una volta che si inizia il trattamento, quindi è diagnosticata, la ripresa è anche rapida. Tutto questo accade in Africa, dove il QAM di Padova è impegnato da anni e dove, per molti versi, le condizioni sanitarie sono simili a quelle dell'Europa a cavallo tra l'8 e il 900, il periodo in cui la malattia, nella sola Europa, ha ucciso circa 100 milioni di persone. Oggi, come abbiamo sentito, l'OMS indica quasi 9 milioni di casi l'anno, distribuiti secondo una mappa che il dottor Roviglione fa per noi. Noi possiamo dire che 2/3 dei casi circa stanno in Asia. Nelle grandi popolazioni dell'Asia il tasso pro capite è così elevato, a essere a 100, 200 per 100.000, noi lo usiamo in questi termini, tale da determinare letteralmente 2/3 dei casi di tubercolosi, che sono sui 9 milioni, come dicevamo prima. L'Africa ne ha 1/4 dei casi al mondo, con i tassi pro capite però molto più elevati, quindi arriviamo a 1.000 per 100.000, teniamo conto in Italia siamo a 7, quindi a 1.000 per 100.000 abitanti, 1% della popolazione che si ammala ogni anno. Nell'Europa dell'Est ha una forma speciale, perché lì 1/3 dei casi, in alcune parti della Bielorussia, della Russia, eccetera, sono multiresistenti, cioè sono casi di tubercolosi che non rispondono alle terapie convenzionali. La tubercolosi abita nell'uomo fin dall'antichità. Ippocrate, 25 secoli fa, l'aveva indicata come la più diffusa malattia di tutti i tempi e la chiamava ptisis, la tisi. Avicenna, nel X secolo, fu il primo a identificare la tubercolosi polmonare come una malattia infettiva, il primo a riconoscerne l'associazione col diabete ed il primo a suggerire che si potesse diffondere attraverso il contatto con il suolo e l'acqua. Il batterio che causa la tubercolosi, il Mycobacterium tuberculosis, venne identificato e descritto il 24 marzo 1882 da Robert Koch, che per questo si meritò il Nobel per la medicina del 1905. Tubercolosi, tisi, mal sottile o consunzione che dir si voglia, fu la prima emergenza di sanità pubblica nel XIX secolo. Matilde Manzoni, figlia di Alessandro, Chopin, Anton Chekhov, Silvia Di Leopardi e Mimì della Boemme di Puccini. Le vittime vere o immaginarie della tubercolosi sono ovunque. Ancora nel Novecento è il flagello del ceto povero. Prima del 1918, una morte su 6 in Francia era ancora causata dalla TBC. In Europa le morti da TBC crollarono da 500 ogni 100.000 casi nel 1850 a 50 ogni 100.000 casi nel 1950. Miglioramenti nella salute pubblica ridussero la tubercolosi ancor prima dell'arrivo degli antibiotici, tanto che quando il Medical Research Council venne formato nel Regno Unito nel 1913, il suo scopo principale era la ricerca sulla tubercolosi. Non fu che dopo il 1946, con lo sviluppo della streptomicina, che ci fu una vera e radicale svolta. I cried so hard the day you left, yeah. L'abbiamo creduta sconfitta, ma non lo è affatto. 9 milioni di casi nel mondo e un ritorno legato anche alla grande mobilità della nostra società. Tutto questo fa sì che oggi Londra sia la capitale europea della tubercolosi. In Gran Bretagna sono stati registrati 5.000 casi nell'87, che sono diventati 6.300 nel 2000 e 7.600 nel 2005. Chiaramente non sono nulla rispetto ai 117.000 casi registrati nel 1913, ma sono sicuramente troppi. L'Europa si è data una strategia che fa capo al Centro di Controllo Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, che ha sede a Stoccolma. Il dottor Pierpaolo De Colombani ci spiega quali sono i pilastri di questa strategia europea. Facendo riferimento alla strategia per la tubercolosi, dovrei citare almeno 3 documenti. Uno è il piano d'azione per combattere la tubercolosi nella Unione Europea, è un documento che è stato pubblicato nel 2008. Poi c'è questo piano d'azione è a complemento di un altro piano d'azione per combattere la tubercolosi, questo nei 18 paesi prioritari della regione europea, dell'OMS, per un periodo dal 2007 al 2015. E ancora più interessante il piano d'azione per prevenire e combattere la tubercolosi farmacoresistente nella regione europea, che copre il periodo 2011-2015, che è stato pubblicato dall'OMS più recentemente nel 2011. Dottor Colombani, all'interno dell'Unione Europea, secondo i dati forniti dall'OMS, il paese più colpito dalla tubercolosi è la Romania. Ma quanto costa affrontare un'emergenza sanitaria di questa portata? E nel caso della Romania, ci sono i soldi per contrastare il contagio? I costi della tubercolosi sono alti. Il costo per tubercolosi nell'Unione Europea è stimato sui 15 milioni alla settimana, 750 milioni di euro all'anno. Quindi c'è un gap finanziario, questo gap dipende molto da quanto i pazienti a tubercolosi vengono trattati in ospedale, quindi a costi più alti, oppure al di fuori dell'ospedale a costi più bassi. E ci sono molti paesi che cercano di fare il loro meglio, si trovano però anche in una situazione di riforma sanitaria, di riduzione di numero di letti ospedalieri che introducono dei interventi molto più costo efficaci, e uno di questi paesi è la Romania, e di conseguenza è la Romania che ha un problema anche finanziario per quanto riguarda il controllo della tubercolosi. Sono Susanna Esposito, sono il direttore della prima clinica pediatrica presso la De Marchi della Fondazione IRCCS Cagranda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, e sono anche il presidente della Società Italiana di Infettivologia Pediatrica. Nel novembre del 2012 è stato creato il registro della TBC in età pediatrica, una sorta di sistema difensivo. Credo che si debba parlare di un sistema, da una parte di monitoraggio dei veri e propri casi pediatrici e dall'altra di unificazione di diversi centri che hanno anche un'esperienza diversa e che seguono pazienti di diversa complessità, al fine di uniformare la gestione dei pazienti stessi. Infatti, indubbiamente la tubercolosi, anche in età pediatrica, è una patologia in costante aumento, soprattutto nella fascia di età 0-4 anni, che è la fascia che da una parte può presentare quadri clinici più gravi, come possono essere le meningiti, per arrivare a una delle situazioni più estreme, proprio da Mycobacterium tuberculosis, e dall'altra può presentare invece quadri magari di gestione più semplice, come possono essere delle forme che hanno un coinvolgimento polmonare, delle forme primarie con coinvolgimento polmonare, che quindi possono essere magari gestite non in centri di riferimento per l'infettivologia come tali, ma siccome poi, al fine di evitare da una parte che la malattia progredisca e al fine di evitare che il soggetto non guarisca, è essenziale una terapia prolungata condotta correttamente, con un controllo della sicurezza del trattamento che viene somministrato al paziente e anche con un adeguato follow up. E allora su questo, siccome in contemporanea è in aumento non solo la tubercolosi normale ma anche la tubercolosi multiresistente, che è di gestione molto più complicata, abbiamo sentito l'esigenza proprio di creare una rete che permettesse poi di identificare un approccio unificato dalle situazioni più comuni, ma che poi spesso portano a un comportamento difforme, quale quello della gestione del bambino esposto. Quindi proprio per questo abbiamo unificato le forze creando un registro, facendo degli studi su chi aveva esperienza sui test diagnostici già effettuati, studi che sono tra l'altro in corso di pubblicazione, e a fronte di quello il passo successivo sarà proprio lavorare sulle linee guida. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.